Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. È lunedì, nuovo appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori. Anche oggi ritroviamo al telefono Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, buongiorno ai radioascoltatori. Parliamo di impianti fotovoltaici. È un pensiero che penso nella vita i padri di famiglia, quelli che cercano una buona gestione, no? Dei costi per avere riscaldamento, la corrente elettrica. È un pensiero che ognuno di noi nel piccolo ha fatto, magari chi andando ad approfondire in maniera più seria le notizie, chi invece affidandosi completamente a questa piuttosto che a quella ditta. È proprio di un impianto fotovoltaico di cui parliamo oggi. Esatto, Francesco. Ecco, secondo me hai fatto proprio un'introduzione perfetta, perché per quanto riguarda proprio gli impianti fotovoltaici, che sicuramente producono degli enormi vantaggi e comunque hanno dei pregi appunto enormi, però giustamente prima di affrontare costi che sono girano attorno a decine di migliaia di euro, è bene essere informati su tutto. Perché dopo ci si può trovare di fronte a sorprese non gradite. Ecco, in questo caso ci troviamo appunto di fronte a una sorpresa non gradita, probabilmente anche sicuramente per mancanza di chiarezza da parte dell'azienda che in questo caso ha fornito il servizio a un nostro socio. Stiamo parlando di Green Power, che appunto in questo caso non ha fornito un buon servizio. Allora, la storia è un po' particolare. Intanto stiamo parlando di una persona che appunto per farsi mettere l'impianto, farsi installare l'impianto e anche per farsi installare una pompa di calore per il riscaldamento, ha speso una cifra che si aggira intorno ai 50.000 euro, però. Quindi una cifra molto importante. D'altronde sono questi costi che in teoria poi vengono ammortizzati nel corso degli anni per un risparmio nella produzione. Esatto. In questo caso, per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, da Green Power è stata promessa la possibilità di poter rivendere l'energia in eccesso ad Enel, però questa possibilità in realtà non c'è stata, perché è un termine un po' tecnico, comunque l'inverter, che è uno strumento appunto utilizzato negli impianti fotovoltaici, quindi l'inverter solare montato in casa, in realtà non poteva fornire energia all'esterno dell'abitazione. Invece uno dei grandi vantaggi di chi ha impianti fotovoltaici è quelli di dire, ecco, magari in un periodo in cui produco, soprattutto d'estate, tanta energia, posso anche andarla a vendere all'esterno, e questo sarebbe uno dei vantaggi. In questo caso Green Power, diciamo, ha detto un'inesattezza, ecco, che ha lasciato un po' spiazzato il nostro socio. La cosa peggiore però è legata invece al riscaldamento, perché sì, il nostro socio ha dovuto anche ha acquistato una pompa di calore, che però in questo caso la pompa di calore è una pompa di calore elettrica, gli ha fatto lievitare incredibilmente i costi, per cui se lui prima pagava una media di 250 euro a bimestre, ora arriva a pagarne addirittura 500. Ecco, questa storia appunto ci insegna che per quanto riguarda questo tipo di impianti è necessario veramente avere tutte le informazioni necessarie, perché altrimenti si rischiano brutte sorprese. Tra l'altro, e questo è il terzo punto su cui il nostro socio si è attaccato, andando a contestare un po' il comportamento dell'azienda, ecco, questa azienda appunto nel nome si chiama Green Power Enel. Sì. Chiaramente non c'entra niente con Enel, ma il nostro socio che da sempre si è rifornito appunto da Enel, anche quindi insomma un'azienda imponente, diciamo tra virgolette, era convinto che anche Green Power appartenesse a questo, fosse un ramo dell'azienda. Questo per dire cosa, Francesco? Che ci troviamo in un mercato molto concorrenziale, e questo può essere un vantaggio, però è anche un mercato che sta spiazzando tantissimo le persone, tantissimo gli utenti. Non sto parlando solo del fotovoltaico, ovviamente, sto parlando di tutto ciò che riguarda la fornitura sia di energia elettrica che di gas, di cui abbiamo parlato tante volte anche durante le vostre trasmissioni. E per quello noi già a suo tempo abbiamo detto che vogliamo intervenire sul garante per varie motivazioni, anche contro le telefonate commerciali, ma invochiamo anche una trasparenza totale nelle offerte, perché ci rendiamo conto che si sta creando grande confusione, con problemi poi notevoli anche dal punto di vista economico. Sì, perché magari non si dicono delle cose, ma si omettono proprio per non dirle. Appunto. E quindi uno magari crede di aver capito una cosa che in realtà non è stata detta e quindi poi nascono i problemi, come a questo signore che ha speso un tot di soldi, anzi molti soldi, per trovarsi in una condizione peggiore di prima. Si teneva la sua vecchia caldaia a gas e probabilmente risparmiava e aveva molti meno problemi. Ecco, è per questo che ne approfitto per lanciare anche un appello, affinché noi lanciamo l'appello sicuramente all'autorità perché sia più chiarezza, perché imponga più chiarezza alle aziende, però diciamo anche alla gente, alle famiglie, di porre il massimo dell'attenzione, soprattutto quando stiamo parlando di cifre di questo tipo e soprattutto quando andiamo a firmare dei contratti per forniture che poi andranno avanti anni, mesi, quello che certo. È, però insomma, che ci impegneranno per parecchio tempo. Vale sempre la regola di farsi fare più preventivi, un po' come per i denti, per tantissime altre cose. Facciamoci fare più preventivi, non fermiamoci al primo pensando ma sì, pago tanti soldi, vuoi che non mi facciano un bel lavoro? Certe volte capita anche questo. Purtroppo sì. Va bene, grazie all'Adico. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Con Gianluca Codognato o con Carlo Garofolini ci ritroveremo giovedì prossimo. Grazie Francesco. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.